Rimango calmo, cioè tento di rimanere calmo. E quando non ci riesci? Ci devo riuscire. Hai mai subito violenze o soprusi? Di Sì? che tipo? Sessuali. Quante volte? Non lo so. Tante. Dove e perché ti ricordi? Appena detto dove, mi è venuto in mente una parte del corpo, poi solo dopo ho inteso la tua domanda e ho pensato dove come contesto spaziale dello spazio. A casa mia, poi oltre dove, qual era l'altra domanda? Dove Perché? perché? Perché un'altra persona aveva abusato di me. E come ti sei sentito? Ero piccolo, non capivo. Con una parola o con poche parole, qual è secondo te il confine della persona? C'è è presto detto, c'è una banalità che mi sono. Cioè, proprio una frase banale che tutti conoscono e che però mi piace ripetermi, è che alla fine la libertà di una persona inizia quando, cioè finisce quando inizia quella dell'altra, quindi se il confine di una persona è quando incontri il confine dell'altra che sta di fronte, e mediare questo confine è il gioco della vita. Cosa ti fa sentire protetta e sicura? Stare solo. Quando senti necessario un abbraccio? Mai. Fa più paura la violenza o la solitudine? La violenza. Che tipo di violenza o che tipo di solitudine? Violenza in senso psicologico e anche in senso fisico, ma mi capita più di vivere quella psicologica nella quotidianità. Forse Sei mai stato violento? sì. Contro Contro chi o cosa? degli oggetti e magari contro delle persone a cui voglio bene e di tanto in tanto contro degli sconosciuti. Associa una parola alla parola violenza. Associa Durezza. un oggetto alla parola violenza. C'è Un vaso rotto. differenza tra uomini e donne? No. Ti senti uomo, donna o altro? Altro. Associa un aggettivo, una parola, alla parola uomo e alla parola donna. Uomo. Bottone. Donna asola. Pensi sia possibile che tu un giorno ti scopri o diventi esattamente il contrario, se uomo donna, se donna uomo? Possibile. Sei spaventata? No. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Libertà e totale allontanamento dagli schemi sociali. Se fosse un corpo di donna o se fosse un corpo di uomo sarebbe la stessa cosa? Che Sì. cosa ti fa arrabbiare? Quando non riesco a raggiungere obiettivi o quando mi pongo troppe domande e quindi do ancora più risalto alla mia insicurezza. Tendo Cosa fai quando sei arrabbiato? a isolarmi per evitare di avere atteggiamenti che dopo mi farebbero pentire. Associa una sensazione alla parola rabbia. Che Solitudine. hai mai paura? Di Tantissime volte. cosa? E a volte di me stessa, a volte di quello che mi circonda, a volte di quello che potrei fare o che gli altri potrebbero fare ferendomi. E che cosa fai quando hai paura? Reagisco d'impulso perché non so come comportarmi solitamente, quindi non ci penso prima. Quando sei felice, cosa fai? O ballo o tendo a cercare di avvicinarmi a una persona che amo e parlarle, starle vicino, abbracciarla. Hai mai subito violenze o soprusi? Forse sì. L'assenza Che tipo di violenza? di una persona o un leggerissimo contatto fisico che magari poteva essere evitato. Quante volte in un mese? Non le conto perché in certe situazioni, cose che potrebbero essere violenza, non mi viene in mente in quel momento lì definirle un atteggiamento violento. Dove e perché? Una situazione generale. Qual è il primo episodio che ti viene in mente? E uno schiaffo. Con uno, poche parole, qual è secondo te il confine della persona? Quello che inizia quando trovi un altro corpo. Cosa ti fa sentire protetta e sicura? Il mio letto. Quando senti necessario un abbraccio? Non lo so, però il mio corpo, cioè, è come se lo sentissi dentro il corpo, non deve essere per forza qualcosa che capita. Però o quando mi sento sola ho proprio un atteggiamento mio che mi viene lì. Allora, puoi anche riscorrere le domande, vorrei che mi dicessi alla luce dei discorsi fatti quali ti sembrano le più efficaci e quali invece sono quelle che magari o ti hanno messo in difficoltà, se sì come, oppure che insomma. Mi ha messo più in difficoltà quelle che sono molto istinti, cioè che fanno in modo che la persona si esponga davvero tanto, tipo sei mai stato violento, sei mai stato violentato. E mi piace molto, mi sono piaciute molto, mi sono sembrate molto efficaci quelle sul corpo, sulla differenziazione fra uomo e donna, sulle paure. E la felicità, gli abbracci, perché comunque espandono le emozioni, ma comunque fanno capire che è tutta una cosa unica perché sei tu, cioè ti devi esporre tu come persona, quindi tutto ti appartiene. E basta. Grazie. Prego.